Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. La settimana in corso ha segnato un passaggio fondamentale per l'economia dell'Unione Europea con la notizia del raggiungimento degli accordi sulle misure per il salvataggio dalla crisi. Ma ci sono anche le reazioni europee agli impegni per la crescita assunti dall'Italia. Questi i temi al centro della cronaca economico-finanziaria di questa puntata di Economia in Europa. È stata senz'altro una settimana molto intensa per il vecchio continente, segnata prima dall'attesa per gli accordi sul piano di salvataggio della zona euro e poi dalle reazioni suscitate dalla comunicazione delle decisioni prese, arrivate nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre. In Italia il dibattito si è concentrato intorno alla lettera con gli impegni per rilanciare la crescita del Paese, inviata alle istituzioni europee. Il delicato compito di questa missiva era proprio quello di convincere della fiducia degli impegni presi per stimolare la crescita del prodotto interno lordo. Sentiamo la sintesi delle aspettative e le indiscrezioni sui contenuti fatta prima della risposta delle autorità europee da Davide Colombo del Sole 24 Ore. Per quelle indiscrezioni che abbiamo avuto nella tarda serata di ieri, poi questa mattina si è saputo che la lettera è stata ulteriormente ritoccata, perfezionata, dovrebbero essere 14 pagine, è stata inviata. Dovrebbe ribadire quelli che sono stati gli interventi fatti con le due manovre estive, fondamentalmente per l'obiettivo che dicevi tu prima del pareggio di bilancio nel 2013, e vengono ribaditi anche e motivati gli interventi che sono stati fatti nel 2010 e quest'anno in materia previdenziale, interventi che la Commissione europea all'epoca approvò e che ora il governo si impegna e ribadisce l'impegno, verranno attuati fino in fondo. Dopodiché questa lettera appunto indica in prospettiva alcuni dei contenuti che dovrebbero essere invece in questo decreto sviluppo di cui si parla da due mesi circa, e che fondamentalmente vertono su una garanzia di tempi certi per lo stanziamento delle risorse per per gli investimenti privati per le infrastrutture e il pacchetto di deregolamentazione di semplificazione normativa per le imprese e per i cittadini, che pure dovrebbe fare parte magna pars di questo decreto sviluppo. Quindi sostanzialmente dovrebbe essere questa la filosofia di questa missiva a Bruxelles, posto che il Consiglio dei Ministri straordinario di lunedì scorso non è servito a varare una misura che evidentemente ci si aspettava sulla previdenza. E veniamo quindi adesso alla risposta che dal vertice europeo è arrivata in merito agli impegni presi dall'Italia. Sulle prime reazioni del vertice all'arrivo della lettera sentiamo il resoconto di mercoledì sera di Vittorio Daroldi, inviato a Bruxelles per il Sole 24 Ore. La lettera è arrivata e le prime reazioni sono abbastanza positive, perché sembra che ci sia appunto un sentimento piuttosto favorevole. Questo però non vorrà dire che verrà meno poi la pressione ancora sull'Italia, sulla realizzazione di questi piani, di questa agenda che è contenuta nella lettera. Quindi probabilmente la bozza che uscirà questa sera conterrà una valutazione positiva degli sforzi italiani, ma nello stesso tempo continuerà la pressione verso il nostro paese, cioè a mantenere quello che è stato poi scritto. Il Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, riferendo davanti alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, ha mostrato la sua approvazione sugli obiettivi prefissati, ma ha anche ribadito la necessità di rispettare i tempi. Sentiamo. Further fiscal consolidation by those member states who need more sustainable public finances and more structural reforms. L'ulteriore consolidamento dei conti pubblici da parte dei paesi che più ne hanno bisogno, insieme alle riforme strutturali, è stato un altro degli elementi che abbiamo affrontato. In questo contesto, il vertice europeo ha accolto con favore i chiari impegni da parte dell'Italia per raggiungere gli obiettivi, fissando un calendario in modo da rispettare i tempi. Questo ambizioso pacchetto di misure, in particolare quelle per aumentare la competitività e le liberalizzazioni, necessita di una spinta in avanti. Tra gli impegni italiani voglio evidenziare quello di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013 e l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni entro il 2026. Inoltre, il percorso per arrivare a questi obiettivi sarà definito entro l'anno. Ricostruiamo adesso le ore che hanno portato ai risultati tanto attesi del vertice europeo. Sentiamo la situazione prima dell'apertura dei lavori, descritta mercoledì sera sempre da Vittorio Darold. Si è evidenziato un grave conflitto tra Francia e Germania sulla risoluzione del finanziamento delle banche. Parigi chiede maggiori misure di sostegno, mentre Berlino frena. Preoccupata soprattutto delle sue finanze e di non superare il mandato che la Merkel ha ricevuto dalla Commissione Bilancio del Bundestag questa mattina. Proprio oggi, infatti. Ma questo perché, secondo te, Vittorio? Perché la Francia ha fatto questa richiesta? Preoccupata per la situazione delle proprie banche, visto che tra l'altro saranno le più penalizzate proprio anche per il taglio che dovrà essere effettuato sul valore dei titoli del debito greco? Esattamente, perché la Francia è ormai sfiorata dalla crisi debitoria e teme per la sua tripla A, cioè il governo francese è preoccupato che l'haircut, questo taglio sui bond appunto greci, possa in qualche modo creare una dipendenza grave poi sui bilanci francesi. E cosa può succedere a questo punto? Che la Parigi chiederà un maggior coinvolgimento del fondo, dell'FSF, nella risoluzione di questi problemi, e invece la cancelliera Angela Merkel, che è meno preoccupata di questi temi, perché le banche tedesche nel frattempo si sono alleggerite dei bond greci, saranno meno preoccupate. Questo quindi creerà dei problemi, perché le banche nel frattempo dovrebbero poi trasformare i bond trentennali in coupon al 6%, eccetera, eccetera. A questo punto si parla di 200 circa miliardi di euro di bond greci detenuti dai privati e che dovrebbero perdere il 50% del loro valore, quindi stiamo parlando di cifre veramente rilevanti. La mattina dopo l'Europa si sarebbe svegliata con la notizia del raggiungimento dell'accordo e sui dettagli del pacchetto di misure prese. Notizie accolte con entusiasmo anche dai mercati, che hanno tutti avuto rialzi fra il 4 e il 6%. Sentiamo l'analisi di Gregorio De Felice, capo economista del gruppo Intesa San Paolo. C'era abbastanza pessimismo sui mercati e una forte incertezza sulla possibilità di trovare un accordo politico. Questo accordo politico nella notte finalmente è arrivato, quindi c'è una reazione, credo anche un po' liberatoria. L'accordo non è di poca portata, è un accordo importante che riguarda i temi del potenziamento del fondo salva stati, il taglio al debito della Grecia e la ricapitalizzazione delle banche. Come in tutte le cose, però, l'attuazione pratica, in modo particolare dell'accordo per il Fondo Salva Stati, richiederà parecchio tempo, presumibilmente dei mesi prima di essere implementato. Quindi attenzione, non possiamo pensare che tutto sia stato risolto in una notte, il diavolo è spesso nei dettagli, quindi celebriamo questo rasserenamento oggi, ma continuiamo a essere prudenti. Questi 1.000 miliardi di disponibilità del Fondo Europeo di Salvataggio, disponibilità massima, non è che devono essere usati, Lei ha capito bene da dove arriveranno? Ma il fondo potrà raccogliere anche da investitori privati e istituzionali, potrà raccogliere da fondi pensione di paesi emergenti che hanno forti disponibilità di riserve. Poi come saranno utilizzati, se a vantaggio dei sistemi bancari o a vantaggio degli stati sovrani, è ancora tutto da vedere. Sul tema delle banche io credo che bisogna curare la causa del problema, cioè il debito degli stati sovrani, poi i problemi si risolvono in qualche modo quasi di conseguenza. Non è che le banche stanno male per quello che hanno combinato. Le banche soffrono la forte flessione dei titoli di Stato dei paesi periferici, quindi pensare di curare il sintomo e non la causa del problema può essere in qualche modo una distorsione. Sì, tranne alcune banche, insomma, Dexia era piena di robaccia, oltre che di obbligazioni greche, era piena anche di derivati. Però il motivo per cui, sono d'accordo con lei, le banche hanno perso molto in queste settimane e mesi è perché, avendo molti bot italiani, ma anche BTP italiani, ma anche greci e spagnoli in pancia, quando si deteriora il valore di questi bot e quindi aumenta il rendimento, è chiaro che c'è un danno economico per l'investimento che la banca ha fatto inizialmente, mettiamola così. E chiaramente tu vai a vendere anche le banche. Quindi lei dice, nel momento in cui mettiamo la cintura di sicurezza a tutti gli stati periferici, cioè Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, con un fondo che ha così tanti soldi, in automatico andiamo anche a tranquillizzare gli investitori sulle banche. Sì, effettivamente lo facciamo, mentre pensare al percorso inverso, ossia obbligare le banche a ricapitalizzare e non aiutarli, non risolvere la questione del debito sovrano in Europa, secondo me c'è un errore di ordine logico. Ecco, sulla Grecia, alla fine la Germania ha accettato quello che i greci dicevano da mesi, cioè non vi riusciremo mai a ripagare più del 50% dei nostri debiti contratti, perché insomma... Sulla Grecia sono stati fatti una serie di gravi errori di valutazione. Possiamo dirlo, perché i tedeschi all'inizio volevano il 100% un anno fa, poi erano arrivati al 70-80% le banche tedesche e anche le banche francesi. Adesso si sono accorti che o chiedevano di meno oppure non beccavano proprio niente. Tutto questo ci ha fatto buttare via quasi un anno e mezzo, dottor De Felice, creando innumerevoli tensioni sui mercati, buttando nel calderone anche Spagna e Italia. Devo dire che se avessimo risolto tempestivamente la questione della Grecia, probabilmente oggi non saremmo qui. Poi noi italiani ce l'abbiamo messa tutta per metterci nei guai. Da soli, certo. Questo da soli, ma questo è un altro discorso. Il problema è che la Germania ha ripetutamente sottovalutato la questione della Grecia. Si trattava di un debito relativamente piccolo rispetto alle dimensioni del debito pubblico dell'area dell'euro, e alla fine siamo arrivati a questa soluzione sperando che questa basti. Non dimentichiamo che dei 440 miliardi del fondo salva stati una fetta molto importante è assorbita già dalla Grecia e sarà successivamente assorbita dal secondo piano di aiuti alla Grecia, che è valutato in circa altri 100 miliardi di euro. Sì, 104. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.